macchinari ancora, boh, non lo so. Allora, ma c'è, cosa c'ha come riscaldante? Un bel di cuocine di stufa a pelle, un bel di stufa a pelle, ce ne avrà 5 da una parte e 5 dall'altra. Tanto non era buona per niente, era secca, era sapore cattivo, non mi è piaciuta. Se non è che era ieri così, ma non te lo so dire, però a me non mi è piaciuta. Dico la verità, se la pizza è buona, te lo dico, quando andiamo a prendere quel posto là è buona, te lo dico. A volte è tutta quanta la... l'impressione, no, del locale che ti fa, magari anche in un locale minorito la pizza è buona, quello lì è enorme, il locale è grandissimo, tutto quello che vuoi, sto bello luminoso, con questo caldo, un tepore proprio che si sente, poi anche il coso dell'ascensore esterno che ti fa, che ti dà una certa chance di quelle, però è tutto fumo e niente arrosto. L'esterno è molto bello, il locale è molto bello, ma abita così. No, non fa. Noi ci siamo passati la notte a quelli culo. No, no, sembrava che avesse predita una roba così, una puttana, un odore del genere, strano. Vai anche tu a mangiare all'ultimo piano. Io te li ho mandati per telefono, non so se li hai visti. Attivo. Già mi dice che altro che mi ha scritto, che cos'è, mi vuoi funzionare, stando. Mi è arrivato quel giorno, non so se li prenderà il telefono, sicuramente mi ci vuole buttare. Sì, magari era anche il traffico che c'era in quei giorni lì. Io te l'ho mandato il 24, mi auguro, vatti a te, a Roberto Quadrato, a Pierpaolo. Poi a chi? A tanta altra gente, amici, insomma, guarda quella rubrica telefonica e uno per uno tutti quelli che io desideravo fare gli auguri glielo fa. Ecco, adesso ci sono arrivato, ho trovato il tuo numero, Dio, perché io il tuo numero ce l'ho segnato in un'agenda, ho già, ce l'ho scritto in un'agenda, non ce l'ho nel telefono, nel numero che ho preso, e ce l'ho registrato anche nell'altro numero che usavo. Acceso, perché l'altro giorno avevo una greffa di amici, volevamo venire tutti lì a mangiare la pizza e poi mi portò la fratella di un amico che apparteva poco, sul telefono gli chiedo bene dov'è, telefonando il telefono si è poi chiuso. Ci siamo mangiati la pizza, ci hanno dato dentro telegrafica. Vabbè. Niente di strano, che se lo organizziamo, propongo e veniamo un po' là. Comunque non andate a mangiare dove sono andato io, perché è tutto fumo e niente arruolo, lavora, bari di sciagose, a buio, vai dritto. Ma dove? Quadrato. Dove al quadrato? Alle cose, abita vicino. All'ultimo. Dove? All'ultimo piano. L'ultimo piano, ma dove stai dicendo già? Ma poi dove andiamo a prendere il caffè? Almeno di sopra. L'ultimo piano. C'è l'estate pizzeria. Ah, positivo, va. Non lo sapevo nemmeno, figurati. Io sto facendo casa lavoro casa. C'ho col tempo di accendere la radio lì. Adesso mi faccio una pellicella, un paio di ore. Una docetta e risaliamo al lavoro, cava. Yeah, meglio così. Meglio che sia occupata. Positivo. Vabbè, di aria non si campa già. O lavori o lavori. Alla gara. Ma piano di culo, va. Fatto per il culo. Come vai? Schifo. Boh, sai. Ieri siamo andati lì con tutta la greca, eravamo 14, uno che ci ha presentato un conto, 260 euro in 14. Maria De Zerubizza è solo una persona che ci dia che ha mangiato la carne e un'insalata, bubarba. Un conto esorbitante. E poi per che cosa? Per mangiare pizza che la pasta aveva un saporaccio strano. Era un sapore proprio cazzo, fuori dal normale. Poi l'ho presa con i frutti di mare, c'erano calamari che erano crudi, le cozze che erano crude, insomma, era vomitevole. Allora, con quei soldi lì, lo sai, tutto ci avevo mangiato, era un fratello, a 14, la regala. O per loro avresti bevuto, dovresti portato la mamma e anche a casa, il mutino del vino, con quei prezzi lì, mangiava solo pizza, cava. Infatti siamo andati già altre volte e non ce l'ha mai successo, eh. Se vi fai una spartizione, allora io non ho mangiato, loro hanno preso anche il tiramisù, ma io non ne ho mangiati. Uno solo di loro ha preso la Macedonia, io non ho mangiato né tiramisù né Macedonia, ho preso solo il caffè dopo. Ah, ma ci fate una glori, non vi dormo più. Yeah. Dio se mostra chi l'ha messo. Beh, adesso siamo in partenza, non va mai, neanche da mezzo di coglione, certo. Già, sono a 20 minuti, sto riprendendo da altre anni. Ehi. Come potrà fare a ponte? Per me lo sappiamo. Ponte, non provare, ma le fai. Ehi, c'è il mobile vecchietti.